Hadith numero 37 da Ibn Abbas, che Allah sia compiaciuto di ambedue, è stato riferito che l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, di tra le cose che gli sono state insegnate dal tuo Signore, benedetto ed eccelso, disse: in verità Allah ha elencato le azioni buone e quelle cattive, e poi ha spiegato questo: sul conto di chi ha avuto intenzione di compiere un'azione buona, ma poi non la compie, Allah registra una ricompensa per un'azione buona. Sul conto di chi ha avuto intenzione di compierla e la compie, Allah registra una ricompensa per un valore che va da quello di 10 buone azioni a quello di 700 e anche di più. Sul conto di chi ha avuto intenzione di compiere una cattiva azione ma poi non la compie, Allah registra una ricompensa per un'azione buona, e sul conto di chi ha avuto intenzione di compiere una cattiva azione e poi la compie, Allah registra soltanto una cattiva azione. Con queste parole l'hanno riferito l'imam al-Bukhari e l'imam Muslim nei loro due Sahih.